La superbia dello spirito mi ha isolato. 15 gennaio. Non ho più scritto niente, perché non ci fu niente di nuovo. Ogni notte il solito rumore, ma non si vede niente. Padre O continua anche a venire, spesso anche di giorno. Questa notte fu così insopportabile che devo annotarlo. Qualche cosa mi tirava in qua e in là nel letto, una cosa così tremenda che non sapevo più che fare. Attorno a me c'era nebbia e tanta che vedevo la luce della stanza come fosse lontana. Mi rifugiai in un'altra stanza, lì stetti in pace, solo sentivo quel rumore. Alle 5 potei coricarmi di nuovo. 17 gennaio. Addio di nuovo incontrato la donna, che avevo già visto una volta. 23 gennaio. Ogni notte è quasi insopportabile, ho una tremenda paura perché devono essere molti in camera. Quando viene padre o il resto sta zitto, e da lui non ho paura. Sono diventata molto debole, e so benissimo perché. La mia anima non può attingere forza e ne avrebbe tanto bisogno, poiché il corpo è ammalato e l'ha gettata nella indolenza. 25 gennaio. Sono venute 5 figure. Esse mi tormentano in modo tremendo, perché continuano a volermi toccare, cosa che è per me la peggiore. 29 gennaio. Ora Pio può parlare. Io, che cosa posso fare per aiutarla? Lui, continua a pregare. Io, non riesco proprio a capire che tu non sia ancora nella beatitudine. Lui, la superbia dello spirito mi ha isolato. Io, ma è tutto il bene che hai fatto? Lui, mi ha salvato. Io, vai anche da altri tuoi alunni? Lui, no. Essi devono pregare per me. 30 gennaio. Ho passato di tutto. Ho chiamato Pio perché le scacciasse, ma egli non venne se non la mattina. Io, non hai sentito che ti ho chiamato? Lui, sì, ero qui. Io, ma allora, perché non ti ho potuto vedere? Lui, perché eri piena di paura e non di amore. Io, ma io voglio aiutare anche loro. Lui, tu puoi aiutare solo se dimentichi te stessa. Io, ma io non sono ancora arrivata così avanti da non aver più paura davanti a quelle cose orrende. 1 febbraio. Padre O rimase tutta la mattinata con me. Anche quando altre venivano in camera, egli restava lì. E proprio come quando era vivo. Durante la notte quegli altri mi hanno tormentata spaventosamente. 4 febbraio. Ora le 5 figure si possono riconoscere, sono 5 donne, ma non c'è niente da fare con loro. Padre O fu qui parecchio. Ora devo scrivere qualche cosa, che per la verità non c'entra con queste cose. Sono più tranquilla, se lei lo sa. La meravigliosa sensazione, come io la chiamo, cresce in maniera tale che mi intimorisce. Io mi trovai assente quasi mezz'ora oggi. E dove? Viene lentamente una cosa sopra di me, mi rende impossibile ogni occupazione. Una presenza invisibile mi attira. Tutto diventa luminoso attorno a me, dopo io non so più nulla di me stessa, lo mi trovo nella felicità, tutto ciò che è umano è eliminato ed io gusto qualche cosa, che non mi è possibile spiegare. La cosa mi intimorisce poiché è certo cosa anormale perdere prima conoscenza umana. Non può essere che un mio pari possa andare in estasi. E allora mi tornano a venire gli scrupoli, che magari mi illudo e dico bugie. Oppure ciò è possibile. Ecco perché metto tutta la mia preoccupazione nelle sue mani, se non va bene o se è sbagliato, lei me lo dirà. 11 febbraio. Ne ho passate troppe. Padre O fu qui a lungo. Io, verrai ancora per parecchio? Lui, no. Io, sei liberato? Lui, non ancora, comunque vedo più chiaro e vado verso questo chiarore da dove io non posso più venire. Io, mi puoi dire se è tutto come mi hai insegnato? Lui, sì, però il linguaggio umano è un simbolo rispetto al Santissimo. Poi vennero i cinque, due dei quali hanno un viso orrendo. Uno mi sussurra qualche cosa all'orecchio, ma io non posso capire. 15 febbraio. Mentre stavo di sopra con W venne l'uomo che avevo visto una volta con Barbara. Egli stava in piedi immobile vicino a me, sembra molto infelice. Cose tremende durante la notte, i cinque tormentano in modo orribile. 17 febbraio. Padre, ho solo un po', mi sorride e poi disparve, penso sia l'ultima volta. 19 febbraio. Mentre tenevo in braccio Wolfram, l'uomo si curvò su di noi e prese a gemere, mi hai dimenticato. Io, è vero, non ho più pregato molto per lui, perché non lo vedevo più.